198. Crocchette di riso semplici. Latte mezzo litro, riso grammi 100, burro grammi 20, parmigiano grattato grammi 20, uova numero 2. Cuocete molto sodo il riso nel latte e a mezza cottura aggiungete il burro e salatelo, levatelo dal fuoco, versateci il parmigiano e così a bollore scocciateci dentro un uovo mescolando subito per incorporarlo. Quando sarà ben ghiaccio, prendetelo su a cucchiaiate ed involtatelo nel pangrattato dandogli forma cilindrica. Con questa dose otterrete 12 crocchette. Frullate l'uovo rimasto, gettateci dentro le crocchette a una, involtatele di nuovo nel pangrattato e friggetele. Si possono servire sole, ma meglio accompagnate con altra qualità di fritto. 199. Crocchette di riso composte. Servitevi della ricetta antecedente e mescolate fra mezzo al riso, quando sarà cotto e dosato, le rigaglie di un pollo tirato a cottura con burro e sugo, e se questo vi manca, supplite con un battutino di cipolla. Le rigaglie tagliatele dopo cotte alla grossezza di un cece.